as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi puntata del pane e rose. Ah, a proposito, ricordiamo a tutti che il pane e rose, per chi non lo conoscesse, è una trasmissione in cui discutiamo di problemi sindacali per la maggior parte delle puntate. Ci occupiamo anche di arte. Ho avuto proprio in questi giorni discussioni, ho parlato con delle persone che mi hanno chiesto perché fare anche arte, perché l'arte è rivoluzionaria. Speriamo di fare il prima possibile qualche puntata dedicata alla musica, alla pittura, alla scultura. E noi ci occupiamo di quello che accade nella società, sia delle questioni sindacali, problemi politici, problemi anche geopolitici, abbiamo affrontato alcune volte, e i problemi concreti della vita, e dai problemi concreti che spesso vengono fuori le cose più incredibili, le idee più innovative che si possono sviluppare con l'arte oppure con iniziative di vario genere. Oggi parleremo di uno dei problemi principali che hanno i lavoratori metalmeccanici, tutti i lavoratori, gli studenti, i pensionati, un po'. Chi c'ha tanti soldi questo problema non ce l'ha, né a Bologna, né a Milano, né a New York. Purtroppo chi è costretto a vivere col proprio stipendio, che visto l'inflazione è un problema veramente fondamentale, è il problema della casa. Abbiamo intervistato Michele Cirinesi, che lui è uno dei responsabili dell'Unione degli Inquilini di Bologna, e con lui abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti. In questi giorni abbiamo avuto lo sgombero del San Giuliana, abbiamo visto proprio la ragazza studentessa che finì in ospedale, abbiamo visto diverse iniziative che ce ne parlerà Michele, ci descriverà quello che loro stanno facendo insieme agli studenti, insieme al Link, che è il sindacato degli studenti. A proposito, ricordo a tutti quanti che hanno aperto uno sportello di cui parleremo, in cui ci sarà questa guida sull'abitare in via Lanzani. Andate se avete bisogno, noi pubblicizzeremo sempre queste iniziative che sono rivolte, sono gratuite, sono rivolte ad aiutare i lavoratori e gli studenti. Adesso sentiamo un pezzo che a me piace, uno del canto Il mio amore non muore mai, è sempre così. Quando finirà di battere il mio cuore, l'amore finisce. Per adesso l'amore continua. E dopo ci sentiremo l'intervista a Michele. E poi parleremo anche di altro alla fine della puntata. A presto, a dopo. L'amore nostro tu lo butti al fiume, senza girate, senza aver dolore. Io mece tuffo e lo riporto a riva, lo tengo appiccicato addosso al cuore. E il male che m'hai fatto non è niente, non m'è sembrato poi così speciale. E il bene resta a me che è roba mia, te lascia lavorare de fantasia. Ma se ti viene freddo quando è sera, scordate qual è la porta mia. C'ho il fuoco acceso e non mi manca niente, figurate se cerco compagnia. Per male che m'hai fatto non è niente, non m'è sembrato poi così speciale. Se fa tornito a doca scala, se primavera, eppure si ce penso me consola. Er male che mai fatto non è niente, non m'è sembrato poi così speciale. Ciao Michele, sono contento di sentirti di nuovo. Oggi con te non parleremo di problematiche di pubblico impiego, problematiche sindacali. L'ultima volta ci siamo sentiti, abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato di quello che succede nella sanità, tu lavori in sanità, ma tu sei anche uno dei che rappresenti l'Unione degli Inquilini qui a Bologna. E ho visto, anzitutto ti volevo fare la domanda perché siamo tutti curiosi su quello che è successo al San Giuliana. Ricordiamo, no? San Giuliana, questa vecchia scuola paritaria, crisi di suore, hanno dovuto mettere in vendita questa scuola. Insomma, credo che sia stata occupata questa scuola dagli DL Cobas insieme a Luna, che è la loro organizzazione studentesca, e sono stati sgomberati. Raccontaci un po' i fatti, visto che voi comunque vi siete occupati, avete espresso solidarietà insieme anche ad altri, ma siete stati qui tra i primi, no? A far questo. Sì, come Unione Inquilini abbiamo espresso solidarietà al collettivo Luna per l'attacco che ha avuto grazie alla questura, che naturalmente ormai risolve le problematiche abitative a Bologna, oppure anche le rivendicazioni del movimento anche all'abitare studentesco, ormai risponde unicamente con colpi di manganello e robe varie. Ci stupisce, ma non poi più di tanto, la posizione che invece ha avuto la proprietà, ricordiamo che era della chiesa, che ha messo in vendita lo stabile. Ricordiamo che quello stabile già in precedenza ospitava molti studenti, perché era non solo una scuola paritaria pagata e presa, quando negli anni passati avevano preso soldi pubblici, quindi la sua funzione pubblica doveva essere, secondo noi, continuare a essere svolta, perché purtroppo non hanno avuto nessun tipo di risposta, almeno per quanto riguarda la questione ufficiale. Ci dispiace che in un momento come questo una parte della Chiesa guardi più al profitto che alla questione sociale. Uno, infischiandosene altamente anche della questione della Costituzione, che dice che anche il privato e soprattutto il profitto privato deve riguardare anche un certo tipo di posizione sociale, cioè deve avere un occhio sul sociale. E naturalmente questo, in questo fatto, non è avvenuto. I compagni del collettivo Luna e della DL Cobas avevano fatto delle proposte, stavano improntando un programma sull'abitazione da parte degli studenti, che in questi giorni si stanno mobilizzando in tutta Italia, ma naturalmente non hanno avuto nessun tipo di risposta, perché quello stabile, naturalmente, una volta sgomberato, sarà di nuovo chiuso e andrà nuovamente nelle mani del mercato o di qualche palazzinaro che dovrà farci il solito bread and breakfast, oppure dei vari appartamenti con la quale riaffittarli, e che sappiamo che ormai il mercato è talmente saturo che molte volte non riescono neanche a venderlo. Quindi noi abbiamo espresso solidarietà a chiunque cerchi di portare alla luce il problema abitativo, soprattutto in questo periodo, dove il problema abitativo degli studenti anche a Bologna è emblematico, cioè è molto molto sentito, perché ci saranno mobilitazioni ancora in essere, e naturalmente come comunione inquilini non possiamo che appoggiare qualsiasi tipo di mobilitazione porti alla luce il fatto che anche a Bologna gli studenti, non solo gli studenti, ma anche i lavoratori, perché ricordiamo che nei pressi c'è un ospedale Sant'Orsola dove ci sono più di 185 lavoratori che hanno dato le dimissioni perché non riescono a trovare un posto dove abitare a Bologna. Quindi la questione abitativa a Bologna è diventata strutturale, si fa fatica a trovare un appartamento anche quando si ha un posto fisso, perché ci sono gli affitti troppo alti, la speculazione è altissima e purtroppo la turistificazione della città in atto non permette ai lavoratori di trovare alcunché per potersi adattare ad una vita che veda sviluppare l'esigenza anche di aspettativa nel futuro, cioè di farsi una famiglia, di avere del tempo libero e di stare a programmarsi una vita, diciamo, tra virgolette, più consona ai ritmi di un lavoratore. Seconda domanda che ti volevamo chiedere, insomma, che siamo in panni rosi, siamo curiosi perché abbiamo visto un'ottima iniziativa fatta proprio dall'Unione degli Inquilini, dunque fatta anche da te, sulla questa guida sull'abitare, organizzata insieme, credo, al Link Studenti Indipendenti. Siamo curiosi perché a Bologna una guida sull'abitare io non ne avevo mai sentito parlare, penso che sia dal basso, chiaramente, non dall'alto, è una novità. Parlaci un po' di questa cosa che avete organizzato con loro, con questi studenti indipendenti che tanto ne hanno bisogno di una guida per orientarsi in questa giungla. Allora sì, naturalmente questo è uno strumento che abbiamo stilato a livello nazionale in collaborazione tra le due associazioni, cioè tra l'Unione Inquilini Nazionale e il Link Studenti Indipendenti, che è il sindacato degli studenti presenti in molte università italiane. Perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo avuto dei rapporti, diciamo, in questi mesi di mobilitazione degli studenti sulla questione dell'abitare. Abbiamo preso contatti e abbiamo cercato di portare un po' del nostro sapere, tra virgolette, diciamo a frutto per loro, perché pensiamo che il diritto allo studio oggi sia strettamente legato a doppio filo al diritto alla casa, come abbiamo visto. E sull'onda di quella mobilitazione che sta ancora avvenendo in tutta Italia e che sta coinvolgendo migliaia di studenti e molte delle loro associazioni, ad esempio quest'estate c'è stato un dibattito in piazza dove erano presenti sia il Link Studenti Indipendenti, erano presenti l'Unione dei Giovani di Sinistra e altre associazioni come anche il SUNIA, l'Unione Inquilini dove abbiamo partecipato, Sinistra Italiana e Mediterranea, ad esempio. È stato un dibattito molto, molto importante e dove noi stiamo cercando un po' in tutti i modi di fare anche rete su queste questioni. E secondo noi questa è una guida che per orientarsi oggi nel mondo degli affitti può essere molto utile. Per esempio, molti non sanno che il contratto transitorio per studenti che si applica nei comuni ad alta intensità abitativa e nelle città sede universitarie, che sono due requisiti che a Bologna diciamo, sposano unitariamente, ad esempio non sanno che si applica il tipo di contratto per studenti, che è allegato all'accordo locale, al canone definito come stabilito nell'accordo locale che come Unione Inquilini, insieme ad altre associazioni dei proprietari e degli inquilini, abbiamo firmato, l'anno scorso. Quindi è uno strumento che per noi è molto utile, cercheremo continuamente di collaborare e di partecipare anche a diffondendolo nei prossimi giorni, lo presenteremo alla stampa e naturalmente siete invitati anche voi a partecipare e a diffonderlo perché riteniamo che sia uno strumento che nelle mani dei cittadini, studenti, dei lavoratori possa servire a orientarsi in un mercato che molte volte si rischia di di trasecolare nel nero oppure in quote di affitto che magari non sono regolari. Questo serve proprio per controllare e denunciare tipi di vessazioni che magari possono finire per essere magari prioritari nel mondo degli affitti. Ecco. Terza e ultima domanda, come facciamo noi qui al Paese Rose, sportello sulla casa. Spiegaci meglio quando è stata lanciata questa iniziativa, insieme alla guida, credo, sull'abitare. Spiegaci meglio, è già operativo, dove si trova, come funziona, uno studente, un lavoratore che è in difficoltà. Guarda, il mondo studentesco io l'ho vissuto e so benissimo le problematiche, ma il mondo anche lavorativo, abbiamo tantissimi giovani che arrivano dal sud, sappiamo benissimo, e sempre di più arrivano qua a Bologna e la difficoltà più grande è trovare casa. Io conosco dei ragazzi con lavori a tempo indeterminati in grandi aziende che sono andati via da Bologna per il problema casa. Sono tornati a casa loro perché era diventata impossibile. Dunque, questo sportello sulla casa penso che sia una necessità impellente. Ottima iniziativa, spiegacela un attimo e dagli tutte le informazioni perché qui al Paneale Rose cerchiamo di fare anche questo tipo di informazione. E ti ringrazio Michele della tua disponibilità e a presto. Sì, allora, e lo sportello è già attivo. Abbiamo aperto giovedì 19 presso la sede del Link Studenti Indipendenti in via Ranzani 14 a Bologna, perché sentivamo la necessità proprio di dare quel tipo di informazioni che servono sia agli studenti e anche ai studenti lavoratori, perché ormai molte volte le figure combaciano, per la ricerca, non solo alla ricerca della casa, perché non siamo un'agenzia dell'affitto, ma sulla tutela dei propri diritti, sulla lettura dei contratti e su tutti i tipi di problematiche che possono, diciamo, coinvolgere sia gli inquilini che i proprietari, perché molte volte magari ci sono anche non solo domande che riguardano i propri diritti sulla lettura del contratto, ma anche ad esempio su chi deve pagare le spese. E quindi sono tutte queste informazioni che noi abbiamo discusso con i compagni della Link Studenti Indipendenti qua a Bologna e abbiamo cercato di aprire uno sportello con loro. La disponibilità loro è stata grande, quindi abbiamo aperto già lo sportello e quindi sì, siamo soddisfatti di questo lavoro perché anche con, ad esempio, con la guida che presenteremo nelle prossime settimane, lo riteniamo uno strumento che proprio serve per orientarsi nel mondo dell'affitto, per orientarsi ed informarsi naturalmente su le problematiche, sui propri diritti, sulla casa e il diritto alla città, ed è un lavoro che noi vorremmo proporre anche ad altre associazioni proprio per cercare di ampliare il più possibile la questione. Quindi sono ben accette anche tutte le collaborazioni con altre associazioni con le quali stiamo cercando di aprire interlocuzioni e di fare rete su questo tipo di problematiche, perché gli sportelli sono il rapporto diretto che uno ha con le persone, vero e proprio, perché ormai non può più bastare la pubblicità sui social oppure solo diciamo, l'azione politica che serve tantissimo, ma serve molto di più anche il rapporto diretto che si ha con le persone che vengono ad informarsi su alcune problematiche che hanno. E sì, io ritengo per esempio che quello che hai detto prima, che ho detto anche prima nella domanda precedente, che questa questione non solo riguardi gli studenti a livello bolognese, ma riguardi anche i lavoratori. Molti lavoratori hanno questa problematica. Oggi è difficilissimo trovare un posto dove vivere a Bologna, come dicevo prima. E ripeto, molte persone che hanno anche stipendi onorevoli fanno fatica a trovare un posto di casa perché purtroppo la turistificazione di Bologna, che ormai è arrivata a livelli estremi, non permette di trovare un affitto decente. Questo espelle fuori dalla città magari un grosso numero di lavoratori che si trovano a dover barcamenarsi, andare avanti e indietro, magari perdendo tempo prezioso della propria vita nel transito tra il luogo di lavoro e il luogo di vita, e naturalmente con spese ingenti. Poi sappiamo benissimo che oggi la benzina è aumentata, sono aumentati i costi di trasporto, sono aumentati i trasporti pubblici, sono sempre meno, e quindi questa è una battaglia che secondo noi invece va ad influenzare anche sulle modalità di vita sia del lavoratore che dello studente. Pensiamo, non da oggi, che la sinergia tra laboratori e studenti debba essere sempre più forte, debba trovarsi unita su alcuni tipi di problematiche. Io spero che questo sportello, che è già in essere, che è già in funzione, possa servire a far prendere coscienza anche a molti inquilini, molti studenti, molti lavoratori, che c'è l'esigenza di combattere per i propri diritti, perché il diritto all'abitare e il diritto alla città e sono funzioni importanti anche su come viene costruita la nostra società. Non può esserci una società giusta ed equa se non si ha il diritto alla casa e il diritto al lavoro. Io vi ringrazio, voglio ringraziare naturalmente il Pannelle Rose per questa bella chiacchierata, e naturalmente mi metto sempre a disposizione di dare informazioni a questo programma che è veramente importante. Grazie a tutti e ciao. Siamo tornati più arraggiati da ieri. Più passo tempo, più ci facciamo scura. Siamo tornati e ci facciamo venire. Parliamo, faccio, non teniamo problema. Allora, vi ho ascoltato Al Mukawama, un pezzo che per forza lo dovevo mettere. Era uno dei pezzi miei preferiti di Zulu. In questo caso vi ricordate l'album Al Mukawama, in cui si parla dopo un suo viaggio in Palestina insieme ai suoi compagni. Ha tirato fuori questo album e questa è la canzone che dà il nome all'album. Al Mukawama è la resistenza, quella comunista, quella del Fronte di Liberazione della Palestina. Voglio dire subito, chiariamo, facciamo con quelli che vanno in televisione, no? Che noi non siamo favorevoli ad Hamas, il pane delle rose. Ovviamente siamo molto vicini al Fronte di Liberazione della Palestina, non posso negarlo. Sono comunisti come noi, insieme a tutti gli altri compagni palestinesi che lottano per una Palestina libera e soprattutto socialista, cioè, insomma, magari. E lottiamo anche per un Israele socialista, insieme ai compagni che ci sono in Israele, questo sia chiaro. E secondo me, se noi avessimo, lo dico proprio chiaramente, un Israele socialista e una Palestina socialista, secondo me non litigherebbero. Questo sarebbe un sogno, era il sogno di tanti compagni degli anni 60, 70, anche 80, anche dopo, che vivevano, capito, sia in Israele che in Palestina. Ho messo questo pezzo perché oggi abbiamo parlato di casa, abbiamo parlato dei problemi che ci sono degli studenti, però in questo momento stanno distruggendo le case, la stanno distruggendo nella più grande carcere a cielo aperto che abbiamo nel mondo, è Gaza, gli ultimi del mondo, gli abbandonati, quelli di cui nessuno interessa. Hanno fatto questo gesto davvero drammatico, bruttissimo, da condannare l'attacco ai civili israeliani, è stata una mossa stupida, si ripercuoterà contro, ma è purtroppo la mossa di un disperato, di chi ormai abbandonato, messo in un angolo, vuole far sentire la sua voce. Ci siamo anche noi, in maniera sbagliata, perché adesso ne pagheranno le conseguenze, ne pagheranno tutti i palestinesi, donne e bambini, lo stanno già pagando. Quello che serve è al Mukawama, serve una resistenza socialista che lotti per un mondo diverso in tutto il Medio Oriente. Speriamo che insorgeranno i popoli e non prendano la linea della destra, dell'integralismo religioso, del nazionalismo, che non porta da nessuna parte, porta a continuare ancora guerre su guerre. Purtroppo i nazionalisti distruggono i sogni dei socialisti e distruggono le prospettive di pace. Non dobbiamo dimenticare che chi ha affossato il progetto di pace, chi ha ucciso Rabin, era un israeliano, non era un palestinese, era un nazionalista che oggi è al governo in Israele. Dunque la situazione è difficilissima, ci troviamo in una situazione complicata, ci troveremo di fronte a sempre più crisi, che questa ennesima guerra porterà altre crisi, porterà anche altri disperati che cercheranno di trovare una soluzione venendo anche da noi. Ci sarà il problema di dove sistemare queste persone, oggi in Egitto hanno un problema enorme, ma domani sarà il nostro. E la casa è diventata un lusso che si possono permettere solo i miliardari, città come Bologna. Io dico che veramente abbiamo ragione Michele quando dice che quello che loro fanno, cercano di stimolare e influenzare i cittadini a pensare che è possibile difendere i propri diritti, che non è più utopico, non per forza dobbiamo scendere a compromessi, significa pagare, svenarsi di tutto il proprio lavoro, mettere tutti i soldi del proprio stipendio per poter abitare, questo è impensabile, è inaudito. Ne abbiamo bisogno di alloggi, ne abbiamo bisogno noi, lavoratori, chi arriverà in Italia disperato ha bisogno di un posto dove poter essere riparato. Ecco, io vi saluto con questo messaggio di speranza e al Mukawama. Orgoglioso de estar.